Friuli nel mondo, 77esima trasmissione dedicata agli emigrati. Ricordando Mario Montico. L'8 aprile 1959 si spegneva in Udine Mario Montico, all'età di 74 anni, e il Friuli perdeva un musicista di chiara fama. Insegnante di composizione al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, fu chiamato nel 1927 a dirigere il liceo musicale Jacopo Tomadini di Udine, ove, sino al 1951, profuse ai moltissimi allievi la sua vasta cultura musicale e la sua cristallina onestà nell'arte. Di notevole fecondità artistica, accompagnata da una conoscenza e padronanza non comuni della tecnica musicale, Mario Montico scrisse per il teatro, per la chiesa, per l'orchestra sinfonica e per complessi da camera. Perduta in un incendio la sua considerevole produzione giovanile, di lui ci rimangono, a testimonianza della sua ispirazione musicale e del perfetto equilibrio di forma e di dimensioni, molti lavori, in parte inediti e in parte noti. Di questo valente educatore e compositore friulano, che chiude la ultrasecolare tradizione di una famiglia di musicisti, vi faremo ora ascoltare, cari amici lontani, alcuni brani che mettono in risalto la spiccata sensibilità dell'artista. Eligio Ciriani, violinista, ed Enrico De Angelis Valentini, pianista, ambedue docenti del Liceo Musicale di Udine, eseguiranno il secondo tempo andante della sonata per violino e piano. Thank you. Thank you.